da notti di un tempo che fu. Tri cavalleri da Spagna si partirù, dall'Abruzzi a Sicilia passarù, e poi che in Calabria si fermarù. 21 anni lavorarò sotto terra, di fundarli reguli sociali, leggi d'onore, di sangue, di guerra, leggi maggiori, minori e criminali. E sti regoli di sangue e d'omertà, da padre a figli usi il tramarando, che si sveggi di associetà, leggi cu segno da storia la sarù. Ranghetta, camurra e mafia, e società organizzata. Ndrangheta, camurra e mafia, Sicilia, Calabria donorata. La mattina a menzu di lumari, navaricetta, viti navicari, 5 veri e 7 marinari, uno di chi stimi posi domandari. Giovanotto dicete che cercati, onore, sangue, e chi rispondia, sopra sta barca si bua in chi annati, onore, sangue, trovammo per la via, e me portaru a menzu de lumari, Gianni Soletta in nome Favignana. O gente tutti, chi stati a scutari, chi sai la terra vicina e sai lontana. Ndrangheta, camurra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà. Ndrangheta, camurra e mafia, e cu sgarra nutta pietà. A c'era nu castel cu tristanzi, undi la prima puzzava infamità. Tre gucci sanguinta secunda in ci trovammu, mentre in ta terza un corpo in società. Degno e merito le fui riconosciuto, sotto l'arbero da scienza battiato. Onorato circolo a tutti vi saluto, fino alla morte a voi su vinculato. E un fazzo l'omu pe sangue e pe onori, e piscacciari l'infami e i traditori. Niente perduni e nudda pietà, chi sto me impone stu corpo e società. Ndrangheta, camurra e mafia, società organizzata. Ndrangheta, camurra e mafia, leggi d'onori, leggi d'omertà.